Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Cesare Verona. Ricordare il passato e scrivere il futuro. So che le aziende devono guardare avanti anche in un momento economicamente difficile come questo e pensare al futuro, cioè il passato può servire come punto di partenza e di esperienza, ma bisogna guardare e proiettare gli occhi avanti. Cesare Verona, classe 1968, è direttore generale di Aurora, azienda torinese che produce e commercializza penne, orologi, pelletteria e carta. L'azienda è da sempre di proprietà della sua famiglia ed è stata fondata nel 1919. In realtà forse la storia comincia, per quanto ci riguarda, qualche decina d'anno prima, perché mio bisnonno, da cui io prendo orgogliosamente il nome, Cesare Verona, portò la macchina da scrivere in Italia nel 1860, circa una quarantina d'anni prima, 50, di Camillo Olivetti. Per cui, se si vogliamo, la storia della scrittura in qualche modo italiana penso sia parte del DNA della nostra famiglia. Poi, come sono le storie della vita, l'azienda effettivamente Aurora nacque nel 1919 di fronte al Duomo della città di Torino, in una via che si chiama Via della Basilica, e poi ci fu una tappa significativa e fondamentale, che è quella del 43, in cui l'azienda fu bombardata e da lì ricominciò una seconda era. Cesare Verona rappresenta la quarta generazione della famiglia e porta avanti una storia che riguarda l'evoluzione degli strumenti di scrittura durante un secolo. Ovviamente, non avendo vissuto quel periodo, è un periodo che io posso vivere attraverso i prodotti e la nostra memoria storica che abbiamo cominciato a ricostruire proprio per ricordare che comunque la distruzione del 43 doveva, diciamo così, sanare una ferita, e abbiamo cominciato a collezionare e recuperare tutti i nostri prodotti. Per cui la storia degli oggetti, dal più piccolo in ebanite a delle penne in argento, in oro e di altri materiali, la celluloide, accompagnano i primi anni dell'azienda. E sono anni che sono legati al costume degli italiani e all'evoluzione tecnologica. Negli anni 30 le sanzioni penalizzano il tentativo dell'azienda di conquistare i mercati esteri. Poi arrivano le collaborazioni con i grandi designer. Marcello Nizzoli, Abe Steiner, fino al 1970 con la Stilla di Marco Zanuso, oggi esposta al MoMA di New York. Cesare Verona entra in azienda nel 1993 dopo gli studi e dopo aver fatto per alcuni anni esperienze di lavoro in altre aziende, anche all'estero. Quando compie la scelta di seguire la tradizione di famiglia, cerca una strada che gli permetta di aggiungere qualcosa di suo e cambiare il risultato. Io una cosa che posso forse consigliare a tutte le persone che in qualche modo si affrontano il mondo del lavoro e che hanno la fortuna in qualche modo di avere un padre e un'azienda che ha una tradizione più o meno lunga, più o meno grande, è quella comunque di andare fuori e affrontare altre esperienze. Io mi sono laureato relativamente presto, a 23 anni, e per scelta mia personale ho voluto andare a lavorare in altre aziende. Ho fatto un 6-7 anni di esperienza e poi mi sono reputato maturo eventualmente per ritornare. Mio padre disponibile ad accogliermi, e per cui da lì è cominciato la mia carriera, diciamo, professionale interna all'azienda. Io ringrazio moltissimo questo periodo al di fuori addirittura anche della mia città e anche addirittura del mio paese, perché ho anche lavorato per un po' di tempo in Stati Uniti, e questo mi ha permesso di portare una capacità di comprendere le realtà, il modo di affrontare il lavoro e gli meccanismi anche mentali con cui si affrontano i problemi differenti, e per cui essere portatore almeno di un punto di vista anche all'interno dell'azienda. È non sempre facile il rapporto con il padre, non è sempre facile il rapporto in un'azienda che ha vissuto e ha una storia di un certo tipo portare cambiamento. Il tema del cambiamento non è così semplice nelle aziende familiari. Tra i cambiamenti intervenuti nell'azienda con la nuova direzione, Il principale è forse l'apertura ai mercati esteri, con un processo di internazionalizzazione che sarà sempre più importante nei prossimi anni. Effettivamente, quando io sono arrivato in azienda, la quota parte di mercati internazionali era molto bassa, addirittura sotto il 5%, il 3% per la precisione. Oggi noi esprimiamo il 40% nei mercati esteri, per cui diciamo così la quota è significativamente cambiata. È evidente che sensibilità diverse, necessità diverse e anche un modo di affrontare la vita molto più connessa, più internazionale, penso possa aver influenzato, per cui io sicuramente mi sono impegnato professionalmente su questo campo e ritengo che abbiamo fatto una prima parte del processo di internazionalizzazione di questa impresa. Io ho sempre un benchmark, oggi siamo a 60% circa Italia e 40% estero. Penso che un'azienda perfettamente internazionale, ed è rarissimo avere delle aziende di questo tipo in Italia, dovrebbe fare il 90% del proprio fatturato all'estero e il 10% in Italia. Questa è la quota del 10-12%, questa è la quota lusso che esprime l'Italia. È evidente che non penso potrà essere così nel nostro caso, ma a mettersi un obiettivo del 70 estero e 30 Italia penso possa essere ragionevole, potrebbe essere diciamo un tipo di guideline che mi sento di portare avanti con i miei collaboratori. Accordi commerciali con distributori e rivenditori, apertura di punti vendita monomarca, attenzione ai mercati emergenti dell'Estremo Oriente. Nel 2010 Aurora ha iniziato la commercializzazione dei prodotti in Turchia, insieme a recenti accordi in Vietnam e Cina. E poi ci sono i mercati storici. Stati Uniti, Giappone in maniera storica da molto tempo e poi ultimamente nei mercati emergenti, dalla Russia, oggi in notevole riflessione, in India, in Turchia, in Vietnam, in Corea, ovviamente in diversi paesi europei e alcuni paesi sudamericani. Nel gennaio 2010 Aurora è entrata a far parte del Comitato Leonardo, l'associazione fondata da Sergio Pininfarina e presieduta oggi dall'imprenditrice Luisa Todini, che lavora con l'obiettivo di promuovere l'immagine dell'Italia, le aziende e l'eccellenza italiana sui mercati esteri. Devo dire che per me personalmente, ma penso di poter esprimere anche l'apprezzamento di tutti i miei collaboratori, è stato un coronamento di un percorso, per cui far parte delle eccellenze italiane e portare e tenere alto il concetto del Made in Italy e delle nostre eccellenze, della nostra capacità di saper fare, è stato di grande orgoglio. Io poi personalmente ho avuto l'onore di poter offrire al Presidente della Repubblica una penna Leonardo da Vinci, che per me è diciamo così la rappresentazione concettuale della nostra capacità come sistema paese di fare delle cose eccellenti. Come tutte le imprese italiane all'estero, anche Aurora trova opportunità e difficoltà. E le soluzioni sono sempre quelle legate al fare sistema, al sentirsi parte di un paese e ad agire di conseguenza. Diciamo così, forse da parte nostra, tanto per cominciare, bisognerebbe capire che se iniziamo dall'Italia a fare sistema, quando arriviamo da qualche parte potremmo ottenere dei risultati migliori. E questo è un difetto nostro, genetico, dell'italiano, che è un solista, è un centometrista, non è un maratoneta. E questa è un qualche cosa che, devo dire, ognuno di noi deve guardarsi e fare un esame di coscienza per cercare di ragionare dove si può migliorare. Quello che è sicuro è che noi troviamo delle infrastrutture, dei sistemi, degli enti che forse non sentiamo così vicini e che non aiutano la sensazione di avere dietro un sistema paese, e per cui il fatto di essere un solista permette magari di trovare delle soluzioni. Io ho un'abitudine strana, la gente si stupisce sempre molto. Io quando vado in un paese straniero vado a visitare e a conoscere l'ambasciatore. Ritengo che siano delle persone che siano al servizio del paese, per cui anche in qualche modo al servizio delle imprese e anche in ultima istanza al mio servizio, non inteso come persona fisica, ma come persona che in qualche modo sta portando un pezzo dell'Italia in giro per il mondo. E lo facciamo in tutti i paesi, dalla Corea a Malta, piuttosto che in Turchia, e devo dire che ho trovato sempre grande disponibilità e grande accoglienza. Questo mi conforta. Certo che quando poi andiamo a guardare in certi paesi come sono le infrastrutture e il modo di accoglienza, dagli aeroporti ai sistemi di trasporto, beh, ci rendiamo conto anche che l'Italia non è messa proprio benissimo. Se se l'ingresso di Cesare Verone in azienda ha portato a un'apertura verso i mercati esteri, a contatti e progetti per il futuro, una delle sue passioni riguarda il passato. È il recupero degli oggetti che hanno fatto la storia dell'azienda, ritrovati e raccolti in un'esposizione permanente, il Museo del Segno e della Scrittura. Effettivamente noi abbiamo creato un'associazione senza fini di lucro che si chiama Aurea Signa, che ha lo scopo sostanzialmente di perpetuare il segno dell'uomo, perché il segno dell'uomo è cominciato con la mano in una caverna e sta proseguendo toccando l'iPad, per cui è un'evoluzione della nostra specie ed è un modo di esprimerci. Guardavo con un po' di tenerezza e ahimè con anche il senso degli anni che passano, ho ritrovato in azienda la fotografia di quando mi sono laureato e io come regalo di laurea chiesi, anzi mi fu donato in realtà, forse interpretando i miei desideri, dai collaboratori di mio padre una piccolissima collezione, il nucleo iniziale di questa collezione di vecchie penne Aurora, una ventina. Ho ritrovato le foto di queste prime penne, per cui mi è venuta da una parte tenerezza, dall'altra parte mi ha dato anche la sensazione di quello che abbiamo fatto negli ultimi anni e abbiamo creato oggi 4.000 pezzi che sono comunque a disposizione in parte del pubblico e che fanno parte di un progetto culturale che mettono in qualche modo in rete e a disposizione degli altri un pezzo della storia del nostro paese. Per la distribuzione l'attenzione è verso l'estero. La produzione resta invece concentrata in Italia, in Piemonte, con un unico stabilimento produttivo di 10.000 metri quadrati a Torino e legata all'artigianalità. È una scelta che noi abbiamo fatto innanzitutto perché i nostri prodotti sono fatti al 100% in Italia. Io ci tengo, anche questo è un tema scottante, è un tema secondo me di rispetto del consumatore. Io ritengo che il consumatore debba essere libero di scegliere il prodotto che crede che meglio gradisce. Però è importante che quando si dice Made in Italy sia fatto veramente in Italia. Io posso solo assicurare per quanto riguarda la nostra azienda che i nostri prodotti sono fatti in Italia, nella nostra manifattura a Torino. L'artigianalità e la capacità del saper fare dei mestieri, non dobbiamo perdere i mestieri in questo paese perché solo i mestieri portano la conoscenza ed è, ritorniamo al punto, che la conoscenza poi si trasmette alle generazioni future. Le esponenti dell'ultima generazione della famiglia sono le due figlie di Cesare Verona che oggi hanno 7 e 9 anni, viaggiano e studiano le lingue. Oggi lo dico per cercare anche di far capire che comunque siamo una famiglia aperta al mondo, le bambine parlano già due lingue e devo dire sinceramente correttamente, e la più grande, che si chiama Virginia, non lo sa ancora, ma penso che sarebbe molto utile che in un prossimo futuro impari una terza lingua che sarà il cinese. Io la seconda lingua che ho imparato è l'inglese, ma dobbiamo confrontarci con mondi e modi diversi di ragionare e di fare business con questi dovremmo convivere. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili al sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.